ci piace il cazzo. E continuo finché non le sazio. Queste liriche son fatte a cazzo per le tipe che ci piace il cazzo. E continuo finché non le sazio. Cinci, schiglia, lugu, qua sbarriglia. Sopra questo beat la mia mente mille miglia. Liriche no sense, metti le spadriglias. Salta qui con me, sulla madre, sulla figlia. Solo una cusquiglia, ti imbocco la salsiccia. Scesa calda dalla griglia, botta chi la piglia. Riepizza la bomba che è sudata, ti vedo impreparata. Tu capiglia il sigari, sei pure laureata. Se me lo mata, sarà poi grata. Le neva mata, quindi la grada. Le fella baffa, bocchini face alla Lady Gaga. Silver Race già fumata, quanto si brava. Wey, metto così, tu ti metti così. Ci facciamo due tre, baby. Se ti metto così, io mi metto così. Ci facciamo due tre, baby. Questo fa i miei tori, vi voglio tutti fuori. Fatele godere, sì, ma da tutti i pori. Pigliati una miss o una street leader. Faglielo vedere che si dice con il pene. Tutto tondo un culo tanto che non si dai più. Ma che poi mentre parla scende giù. E due colpe se sa spadandà. Ratatatan, ratatatantantan. Queste liriche son fatte a cazzo per le tipe che ci piace il cazzo. E continuo finché non le sazio. Ci piace il cazzo e continuo finché non le sazio. Ogni volta che mi giro mi ritrovo le volanti ad ogni istante. I parenti dicono Fabio che canti sotto con gli scontri, poi smanciata coi suddetti. Giro a zonzo spronzo, so il gordo in cerca di badanti. Cavare way, ballo lenti sopra il mio bastone, dacci su coi ballamenti. Non è che se ti scombo t'amo, senti come il pesce piglia l'amo, spero che non menti. Voglio il caso che tuo padre sia Tony Soprano, io volo via, ci salutiamo. Ciao bella. One for the money, two for la fica. One for the money, two for la fica. One for the money, two for la fica. Sempre al primo posto. Per cui queste liriche son fatte a cazzo per le tipe che ci piace il cazzo. E continuo finché non le sazio. Queste liriche son fatte a